Per favore, regoli il volume del suo giradischi in modo da sentire la mia voce come se io stessi conversando con lei a un paio di metri. Ecco, così. Lucky Love. Luca Lucky Love. Scusi, ancora una prova di volume. Lucky Love. Buongiorno e un nuovo tuffo nel mare tempestoso dei rumori. Noi anche le ore libere riempiamo di rumore. È una droga. Non se ne può fare a meno. L'udito è in pericolo. Su questo si è operato. Con il rumore tra le mani. Quello dannoso. Con il rumore tra le mani. E resta nell'orecchio. Con il rumore tra le mani. Quello dannoso. Con il rumore tra le mani. Violenza ad ogni giorno al nostro udito, ai nostri nervi. Della macchina. Unica macchina. Nella mia città c'è una malattia che non va più via. È la macchina. Nella mia città c'è una malattia che non va più via. È la macchina. È la macchina. È la macchina. È la macchina. È la macchina. Unica macchina. Un saluto caro a Musica Macchina su Radio Onda Rossa, da Valeria Brea. Baci. Ogni sabato sera, Giovanna mette Musica Macchina su Radio Onda Rossa. Brava Giovanna. Giovanna, brava. Poi si scarica il podcast, se lo sente e se lo risente. Visto che brava? Tutto il futuro è Musica Macchina. Colore, stupore. Musica Macchina. Ma disgrazia per me, perché... Non mi piace, non dice, mi piace. Dice eccellenza che non ci piace. Buonasera. Voglio ringraziarvi per essere presenti così numerosi. Mi congratulo per il vostro interesse. Fai un passo, avanti. Questa è musica macchina. Musica macchina per muovere il sistema neurovegetativo. Tutto. Per la tua salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene. Musica macchina. No, grazie. Attenzione, prego. State entrando nell'area della navetta che vi porterà a bordo della nave spaziale che è già in orbita. Potrete passeggiare nello spazio, sulla superficie della Luna, vedere le calotte ghiacciate di Marte, cavalcare un asteroide e vivere nello spazio infinito. Ricordiamo a tutti i nostri ospiti che a Future World non si corre assolutamente alcun pericolo. Ogni cosa è prevista e controllata da perfette apparecchiature elettroniche che eliminano ogni benché minima possibilità di rischio. A Future World La perfezione della tecnica è ormai un fatto compiuto. Vi auguriamo buon viaggio. Tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Musica Macchina. In voce con voi c'è Alex Marenga, Amptech, per un'ennesima puntata tematica, questa volta dedicata ancora al Mellotron, allo strumento che anticipa le funzionalità del campionamento, cioè quella tecnica attraverso la quale si può catturare un suono esterno e poterlo riprodurre attraverso una tastiera tipo quella del pianoforte, intonandolo alle esigenze armoniche e melodiche del musicista. Questo strumento, il Mellotron, inaugurato nel 1963, venne largamente utilizzato durante il periodo psichedelico nella seconda metà degli anni 60 da Beatles, Rolling Stones e poi dai gruppi del rock progressive, in particolare sfruttandone alcune timbriche, che in particolare quelle degli archi e quella dei flauti che ascoltiamo in Strawberry Fields Forever, per esempio, dei Beatles. ma venne sfruttato anche dai gruppi del rock cosmico tedesco. Abbiamo ascoltato i Tangerine Dream e sotto la mia voce c'è ancora Klaus Schulze. Da questo album X del 1978 il brano si intitola Friedrich Nietzsche. È un album dedicato alle grandi eminenze della cultura tedesca e questi grandi cori che ascoltiamo sono uno dei timbri più tipici del mellotron che vennero utilizzati ampiamente negli anni 70 dai gruppi del cosiddetto rock sinfonico, che oggi chiamiamo rock progressive, ma allora, prima del grande revival commerciale degli anni 90, si chiamavano rock sinfonico. Proseguiamo nell'ascolto di una carrellata di artisti che hanno utilizzato alla fine degli anni 70 il mellotron, rimanendo ancora attorno al timbro dei cori, questa volta utilizzati in un pezzo completamente estraneo a quella che è l'estetica del progressive e del krautrock. Si tratta di Fausto dal suo album Suicidio 1978, in cui anche lui utilizza i cori del mellotron. Il brano si intitola Innocenza. Lei si addormentava qui con i fantasmi miei, curando la follia con candide paure. Poi, danzando con gli eroi di carta che io mai, trasfigurava l'odio in vanità. Intanto non parlavo, non sentivo, non vedevo, non capivo, impazzivo, io morivo, io! Senza un grido, senza fantasia, dentro ai riflessi di un popcorn già masticato. Trovava più la sua gestualità, cristallizzata ormai da notti troppo chiare. Lei soffriva più che mai ed io non la svegliai, tagliando dolcemente la sua gola. Ecco, per parlare, per sentire, per vedere, per capire, per cercare d'essere senza fantasia, dentro ai riflessi di un pop rock già masticato. Per la tua salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene. Musica macchina. No, grazie. Musica macchina. E questa è sempre Musica Macchina, in voce con voce Alex Maringa. Abbiamo ascoltato un brano di Fausto che si chiamava Innocenza, dall'album Suicidio del 1978, in cui utilizzava il mellotron, che è oggetto della nostra puntata. Oramai siamo arrivati quasi alla modernità, perché gli anni 60 e 70 li abbiamo già affrontati, e all'inizio degli anni 80 il mellotron viene mandato in pensione, in qualche modo diventa uno degli strumenti dimenticati. Innanzitutto perché l'esigenza per cui veniva utilizzato era quella di riproporre suoni naturali, quelli dell'orchestra, dei cori, dei flauti, in modo realistico, e sul mercato all'inizio degli anni Ottanta iniziano a essere proposti strumenti basati sulla tecnologia Pulse Code Modulation, sul campionamento digitale. Dopo il Firelight e il Synclavier, che erano i primi modelli sul mercato, costosissimi, nelle mani di pochi artisti importanti come Pat Metheny o Peter Gabriel, nel corso degli anni Ottanta vennero commercializzati strumenti sempre più economici che utilizzavano questa tecnologia di campionamento, che superava ampliamente i problemi del Mellotron, che erano vari, erano molti. Innanzitutto il suono leggermente tremolante, dovuto al fatto che i motori che facevano girare i nastri in cui erano incisi i suoni che venivano riprodotti ogni volta che si premeva un tasto dello strumento erano fuori sincronismo. Poi il fatto che per cambiare un suono era necessario cambiare tutti i nastri, quindi si trattava di uno strumento complicato, di uno strumento poco efficiente sotto il profilo della riproducibilità del timbro a cui si riferiva, è uno strumento anche ingombrante, quindi per alcuni anni venne messo nel dimenticatoio, finché il revival del rock sinfonico, che in quel momento poi venne chiamato progressive, dovuta anche alle ristampe in compact disc dei classici degli anni 70, rimisero all'attenzione delle nuove generazioni il sound degli anni 70 e 60 e anche quello del Mellotron, e quindi molti gruppi iniziarono a recuperare questo genere di strumento, e anche grazie al campionamento stesso fu possibile riutilizzare i suoni del Mellotron campionati dentro un campionatore, quindi un campionatore che veniva a sua volta campionato. E uno dei gruppi che riutilizzò all'inizio degli anni 90 i suoni tipici del Mellotron furono gli Air, e ci andiamo ad ascoltare un brano estratto dalla colonna sonora del film Il giardino delle vergini suicide, Playground Love. Loro sono gli Air e qui ci sono palesemente suoni di Mellotron, degli archi del Mellotron. È un'esperienza. Dopo il successo riscosso dal Musica Macchina, per venire incontro alle esigenze della clientela, non abbiamo fatto assolutamente niente. Perché Musica Macchina è un diritto di tutti. Máquina. Thank you. Questa è sempre Musica Macchina, una puntata dedicata al primo campionatore della storia, il Mellotron. E siamo arrivati oramai negli anni 90, quando il Mellotron viene recuperato, in particolare non per la sua capacità di campionare dei suoni naturali, ma proprio per la sua imperfezione timbrica, cioè per il fatto che ha un suono caratteristico dovuto alla sua struttura tecnologica, quindi ai motori che fanno girare i nastri e che quindi generano questo tremolio, questo phasing nella riproduzione dei suoni, che ha caratterizzato per tanti anni il suono degli anni 70 e 60. È un altro gruppo iconico, importante, emblematico, che recupera i suoni del Mellotron in anni più recenti, sono i Radiohead, proprio da uno dei loro dischi più importanti, Ok Computer, ci ascoltiamo Exit Music, in cui c'è un utilizzo dei cori. Musica Macchina. Musica Macchina. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. Musica Macchina. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Oh, E questa è sempre Musica Macchina, in voce con voi c'è ancora Amptech per una puntata in cui ascoltiamo alcune delle applicazioni moderne del Mellotron, il primo campionatore della storia, e quelli che abbiamo appena ascoltato erano naturalmente i Radiohead di OK Computer, in cui veniva utilizzato il suono dei cori. E in tempi ancora più recenti, uno dei tastieristi più originali della scena jazz contaminata, che si chiama John Medeski, il tastierista del trio Medeski, Martin & Wood, proprio nel 2019 ha realizzato un album che si chiama Mellotron Variations per tre Mellotron, nel quale anche dal vivo utilizzano alcune versioni più recenti dei Mellotron che ancora sono in commercio, per realizzare totalmente con questo strumento dei brani originali. E con questo album e con il brano che si intitola Roller Rink ci salutiamo, ma Musica Macchina continua naturalmente anche dopo il mio spazio. Musica Macchina. Musica Macchina. Il posto più avanti dove mettere le orecchie. C'è una bontà che nasce dalla natura. Musica Macchina. Quando la natura dà il 100%. Musica Macchina. Dando indistintamente a tutti una posizione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni. Festeggia i 35 anni di Musica Macchina con la nuova edizione speciale. Musica Macchina. Non c'è niente di più divertente. Musica Macchina. Macchina. E se ti trovi con il bagno intasato o la fogna ostruita? Ascolta Musica Macchina. Piacere naturale. This is not music. This is not music. This is a trip. This is not music. This is a trip. Musica Macchina. Ladies and gentlemen. Abbiamo perso il quindicesimo. La danza della mente. Trattamenti fonetici. H501 Noella. La danza della mente. Mi raccomando. Avevo cercato per 3 settimane il grande gorilla delle montagne. Ero fradicio di pioggia e i portatori indigeni erano spenti. Pensavo che ormai non l'avrei trovato mai più. Ma quella mattina smette di piovere e riprendiamo la marcia. Il silenzio della foresta, rotto soltanto dal canto degli uccelli, è profondo. Ma io ho l'impressione che qualcuno della misteriosa comunità dei gorilla mi stia osservando e che abbia dato l'allarme. Sempre più spesso sento fruscii, previ ruggiti, il rumore di rami che si spezzano. E all'improvviso vedo una macchia di verde che si spalanca e mi trovo davanti al capo del branco. È a pochi passi da me. È un mostro alto più di 2 metri che leva il suo grido. cosa farà. Ora si batte il petto. Rimango immobile a guardarlo. Il mostro grida di nuovo e ancora si batte il petto fremente. Nella foresta. Questa avventura mi è capitata nella regione del Kausi, nel cuore dell'Africa equatoriale. Ma anche più vicino a noi è ancora possibile qualche volta ascoltare le voci intatte della natura. Nel silenzio delle Alpi e dei boschi abruzzesi, per esempio, vivono ancora degli orsi bruni. Ascoltiamone la voce. Thank you. È più bello così. Così è più bello. È più bello così. Sugli Appennini, specie d'inverno quando scende a valle spinto dalla fame, si incontra ancora qualche ultimo lupo e si sente il suo ululato lamentoso. Si trova il cinghiale dal caratteristico sinistro grugnito. Alpi, in particolare su quelle orientali, si incontrano i caprioli. Ecco il loro richiamo. E questo è il richiamo del cervo. Ce n'è ancora qualcuno nei boschi della Mesola e lungo il confine austriaco. Nelle alte valli alpine fino al limite dei ghiacciai troviamo le marmotte dall'acutissimo fischio. È il loro segnale di allarme. Il ghiro dorme, come vuole il proverbio, ma quando è sveglio ha una voce anche lui, questa. Ma sentite lo scoiattolo, il più vivace, il più grazioso abitante del bosco. Sta mangiando le pigne. Oggi è un giorno fortunato per lui, le ha trovate subito. Altre volte, invece, deve attraversare chilometri di bosco prima di trovarle. Allora lo vedete che salta da un albero all'altro. Distende la coda come un timone. Sembra che voli.

sun will shine for you. There's nothing I can do. So goodbye, sky. Goodbye, sky. Schluss ein kleines Spendisch an das beste Leder Frühlingsbuch. Mal sehen, ob noch einige der Interpreten wiederkommen. Ha scritto Giacomo Leopardi. Sono gli uccelli di natura le più liete creature del mondo. Gli uccelli cantano sempre. Questo che state ascoltando è l'usignolo. Potete sentirlo dovunque, persino nelle grandi città, sugli ultimi alberi che resistono all'avanzata del cemento. Del resto ce ne sono anche altri. Ecco il merlo. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei der Rohrdommel an der Bassdrum. Dem Zilzalp an der Hi-Hat. Der Saatkrieg an der Snare. Dem Schwarzbecht an den Percussions. Dem Eistaucher am Flächensynthi. Dem Uhu für die Vocals. Der Brandgas an der 3 und 3. Ma andiamo in campagna. tempo i boschi erano tutti un canto di uccelli. Oggi soltanto qualcuno canta ancora. Il tordo, per esempio. Del tutto diverso è il beccaccino. Sembra che mandi dei baci. Ed ecco la tortora. Il fringuello. Dal becco sottile, è lei che ripulisce ogni giorno gli alberi dagli insetti nocivi. La sentite? Sta lavorando. E non è sola. Sentite anche il figlio come sta lavorando. Pensa, lo chiamano lo spazzino della foresta. La gazza, ma dicono ladra perché ha una vocazione irresistibile per tutto quello che luccica, ma non lo fa. Andando verso la montagna si incontrano i membri della grande famiglia dei corvi. Sembrano tristi, così tutti neri, ma non è vero. Sentite la taccola, per esempio. La taccola si addomestica facilmente e qualcuno è riuscito persino a farle dire qualche parola, come si fa coi pappagalli. Scende la notte. È il tempo dei misteriosi rapaci. Il gufo reale. Presto ritorna il giorno. Sentite? È l'allodola. È lei che per prima risponde al saluto del sole. E tutta la foresta si risveglia nella luce. Queste che vi ha presentato Walter Bonatti sono le voci di un mondo che sembra ormai condannato. Ma ognuno di noi può fare qualche cosa per salvarlo. La vita è più facile con Musica Macchina. DJ Elettrodo per Musica Macchina, naturalmente su Radio Onda Rossa. Questo è l'ennesimo appuntamento riguardante la Nuova Zembla, questa etichetta belga che ebbe, tra le altre cose, anche il merito di distribuire qui in Europa materiale dell'etichetta australiana Psy Harmonics. Il 1995 è stato un anno molto prolifico di lavori interessanti per quanto riguarda questa etichetta. Per esempio, Byton, del progetto Self-Transforming Machine Elves, di origine olandese, composto da Mark Poisden e Stefan Osadinski. Una azzeccatissima fusione tra elementi sperimentali, dissonanze house e percorsi di alta tribalità. Da Byton ci andremo ad ascoltare la seconda traccia dal nome Kansas. we're not in Kansas anymore. Rimanendo nel campo più o meno della tribalità, adesso ci trasferiamo in Canada da John Sellekers con il suo vecchio progetto Xingu Hill. Il primo lavoro Maps on Impossible si caratterizzò proprio da un'impronta più ritualistica o sacrale. Dalle note di questo disco si sprigiona una sorta di religiosità pagana. E quindi, peraltro, John Sellekers è uno dei pochi, diciamo, sopravvissuti di quella stagione della metà degli anni 90 e ha anche inciso materiale più ambient con la Glacial Movements, un etichetto proprio qui di Roma. Tornando a Maps on Impossible, ci andiamo ad ascoltare il brano che apriva l'intero lavoro dal nome Myth. Fai, un passo, avanti. Questa è musica. Farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina, impiego di oli alimentari, Weggraf, staccanti sulla superficie delle teglie. Prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali. Tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool. Thank you. verso la conclusione di questo spazio dedicato alla nuova Zembla e lo facciamo con un artista che già avevamo apprezzato la scorsa settimana come Shaolin Woodman. In questa circostanza invece lo apprezziamo come Third Eye, un progetto orientato verso una sorta di Goa Trance che tutti quelli che stanno ascoltando sanno sicuramente cosa significa. E ci andiamo ad ascoltare proprio dal primo lavoro del 1994 che uscì in origine attraverso la etichetta australiana Psy Harmonix, un album dal nome per l'appunto Ancient Future. Ci andiamo ad ascoltare un paio di episodi, ossia la iniziale, la prima traccia Morphic Resonant e poi la terza dal nome Think. Musica Macchina è una scelta intelligente che ti premia in salute. Informati. Musica Macchina, il posto più avanti dove mettere le orecchie e il cuore, forse. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Thank you. musica macchina. Tutte fandonghe. Grande potenza, potenza, potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore. Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. Musica Macchina. Ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno ci ha pagato. Es war wunderschön. Wir wollen mit einem Lächeln auseinander gehen. Mille, mille, mille, grazie. Auf Wiedersehen. Tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica Macchina.